so che funziona, tanto è vero che tutti gli anime cartoni sono made in Cina, non è che sia né un made in Giappone, ma made in Cina sono, quindi non c'è da voi uscire da lì. E adesso vedo, dai. Gli altri che ho visto non mi piacciono, non me ne piace uno, siccome io ho anche Rosman Trovante tra contattore HP1000 che è uguale, come, non so se mi spiego, come estetica è quasi uguale all'alimentatore e fa, capito, si abbinano nello stesso piano, vanno bene per questo. Ehi, però siamo sempre ai soliti discorsi. O compri un alimentatore del cacchio che ti dura dall'estate all'inverno, oppure se devi comprare alimentatore buono. Io il Daiwa, il Diamond che ho io costa 270 euro, comprato a 220, mentre il Box l'avevo comprato a 150 euro, 160, non mi ricordo, capito? E sono eterni, sono alimentatori buoni, di marca buona e che funzionano bene. Se poi vai a comprare la Mondessa è chiaro che vai a attaccare un amplificatore come quello che ho io, ti riesci a bindeggia, perché capo quello c'è un assorbimento allucinante, quindi. Vabbè, vedi tu Gianni, dai, compra bene, mi raccomando, non buttare via i soldi. Avanti o altro. No! Già sono belli, anche oramai sono tutti quanti costruiti in Cina, sono chi più chi meno, gli unici che non sono costruiti in Cina sono quelli di una volta e costano una barca di soldi. Mi pare che ancora li fanno in Italia, gli dettagli, quelli grandi. Ma costano almeno un alimentatore del genere a 50 ampere, parliamo da 250 euro in summe, non è che costa poco, no? Ma se io ne ho visto uno da, non Fusaro, come si chiama quello, Belchiumi, quello che c'è la Predanida, praticamente ho chiesto, era un bel grande questo alimentatore, mi dava, mi pare 5 ampere, era enorme, però aveva, capito, dentro e trasformatore, anzi costava 250.000 lire, una cosa del genere, e gli altri ampere era 5 ampere, non era manco molto di ampere, capito? Te l'ho chiesto, quanti ampere? 5 ampere, te l'ha 50 che ti gusta. Non è possibile, me la giuro di campere, no? Quindi che c'è, tu era enorme, era grande, era, tu non ne hai di quelli lì, era di quelli grandi, invece c'erano strumenti, tutto quanto, era un bel bello com'è, infatti ho chiesto subito, perché mi piaceva, ma era grande, era più grande di quello del 60-55, era più grosso. Ma no, quelli così sono da laboratorio, quelli della CEP sono quelli. Non lo so che barca era, non ho guardato, però era bello esteticamente, capito? E della CEP sono da laboratorio, capito, quando una barca di soldi. E vabbè, taglio io il mio, era 270 euro, cioè 200, o 240, 270, quello della RAI, me l'ho pagato 220. Strumento, tutto, è molto bello, però è Diamond, capito, non è roba cinese. Va bene, KK, Luca, ti sei fattendo? Parlavo di più quelli cinesi di quelli di marca, dipende sempre dalla fortuna che ha. Io mi do con le balle, io ce l'ho un sacco di anni di alimentatore, ne ho 4 alimentatori, ma che PS50 io ho 35 ampere della Chemo, dove già non ne ho bisogno di alimentatore, già ne ho, altri due dentro l'armadio anche, c'ho quello 12-24 che posso usarlo sia a 12 che a 24, capito? Lì posso attaccare, il 24 c'è attaccato adesso, ma posso anche attaccare, per dire, il B300, posso attaccarlo anche lì, perché c'ha due uscite, una 12 e una 24 alimentatore che c'ho io. Ma io al mio li attaccavo il 140, no, va benissimo. Ma allora cazzo non mi hai capito, se però come ce l'ho 5 anni io non mi ha mai creato problemi, come un componente elettronico può partire, no? Se stiamo parlando di elettronica, quindi l'elettronica è fatta per consumarsi, i componenti sono quelli, quindi può darsi che si sia consumato qualche componente e va sostituito, ma l'alimentatore è buono, io non avevo il peso di anni, io, poi tu fai quello che vuoi. Se si può riparare, vai da qua. persona, te lo metti a posto, ma è, perché non me l'ho messo a posto quello della Kenwood. L'ho acceso un giorno, cazzo, con il 430, e di un mai scoppio, ho visto questa luce bianca, bianca, bianca, bianca, cazzo, subito l'ho spento. E tu cosa facessi, Roby? Lo metto il puntale del tester dietro, nelle uscite, nel cavetto suo diretto, e sta parlando 19 volts. La mappa che ne varia. Oh, c'è il finale, non so, sono come il baracchino, c'è il finale. È partita una resistenza che praticamente era lì sullo stabilizzatore di tensione, capito? Quindi arrivava a 1000 diretta, 19 volts. Ma come non ha bruciato il 430? Ho portato la Vittorio e me l'ha riparato. Cavagano. Trovi il laboratorio, se prendi. Ma il numero l'ho trovato, vai. No. Ma te lo procuro io il numero. Se ce l'hai, procuro. No, io non ce l'ho, ma chiamo una persona e me lo faccio dare, qual è il problema? Aspetta che te lo procuro, così lo chiami, domani mattina ti metti d'accordo e glielo porti, cosa... Se ti dice sì, lasciamelo che te lo riparo, cosa fai alla battita? Se ti metti il ma le metti allora che andrai. Ma appunto... Appunto per quello, cioè, non è buttare soldi così già. Già, anche se non c'è il problema, si possono anche spendere, lo faccio io a volte, però scusa se te lo dico, ma risparmiate, no. Aspetta, ti procuro il numero, te lo mando e così domani mattina lo chiami e ti metti d'accordo. A me il mio me l'ha riparato anche bene, sta funzionando sempre. Appunto, è anche una cosa che pompa, cioè anche quello adesso per il momento ti usi con la 30 e fa la grande, fa, cioè, e fa bene. Sì, funziona tranquillamente. Non ho appena fatto con chi su, con l'amplificatore. Uno da 3, dammi guarda, uno, due, tre. Un bel ingresso che stai dando già. Passare il basso della radio e lo puoi utilizzare. Come faccio io, mica rimetto alto. Perché stavo parlando con Ulus stasera e a Ulus avevo bene il radio, anche col massimo, capito? Qua no, perché è normale che è vicino sa a chi muore, chi sa ragione. Il capo, no, io ne do pochi, ne do. E poi lui fa tutto il resto. Io niente, mi ha sospetto. Tanto farti vedere che lo regge, capito? Lo regge bene, anche in banda laterale lo regge bene. L'altro faceva tu, poi tac, si spegne. Tu. Magari chi tu che anda nel mare. Perché non ce la fa, ma non è che ha qualche regolatore, no, non ne ha. Sì, ha antidisturbo, tutte queste cose qua. Chissà che marasur. Non lo dico, qualche regolatore di tensione. No, quello lì è qualche cosa, qualche componente partito che non li fa dare gli amper giusti, capito? Perché vanno laterale mi sento una strappi. Invece con questo qua, con 35, va benissimo. Sì, ma va bene, sì. Sono abbastanza, non è buccia di gioca, sono abbastanza, ho un alimentatore 30 A, non è poco. Ma è piccolino, io te l'ho mandato, non è visto. Sì, lo so, però per il momento va bene, accetta quello che c'è, poi si mette a posto quello e va bene. Ma infatti devo fare così. Adesso chiedo, se mi manda il numero Claudio che fa questa cortesia, lo chiamo. Andiamo a cogliere un buon appoggio, io sono nel corso del laboratorio, ci avremo. No, se vai al laboratorio, se ti dico del laboratorio, paghi. Come il laboratorio paghi? Devi già fare questa etto. Capo e Bugnè, mica te l'ho mandato. Grazie Claudio, te lo paghi. Si può guardare un capo pure, mi ci fate un capo a cosa, a cubetto di ghiaccio. Cazzo, sono riuscito a portare il cane, mamma mia, come sto, mi avrebbe. Va freddo, va freddo un bel. Ma comare che non che si state bene. Infatti se sto più qua che giù, cioè, che giù che c'è più freddo. Se no attendo la ruppa e calci subito. Tanti non che è minoretta la casa, quindi scalda subito. Beh, certo che sì. Se con l'ultimo si espande subito. Allora, basta fare un po' di fuoco e vedi che scalda. Oh, che no, che è pericoloso con i fuochi. No, che si alluma tutto, che è tutto legno. Oh, e vabbè. Va bene, va bene. E già abbiamo detto finito. Come ti è andata la partita? 0-0, una partita un po' monotona, mi sembra, comunque. Sì, così so. E cosa devi fare? Vabbè, come mai? Vediamo un po' com'è la situazione. E l'Inter che dice che è andato in Oramara, lo sai? Che cosa? Quell'apparecchio nuovo che ci avevo. Quello che ci va bene, che è quello col connettore a 5. Sì. Che usciva un po' così, dai. Beh, perché è andato in Oramara, cosa è successo? Sì, vabbè, una cosa banale, adesso sì, si mette a posto e via. Praticamente no, non si sapeva. E questi apparecchi così c'hanno la tensione 8 volt. Secondo momenti d'occhi brucica che cosa, capito? È andato Granchicina. Non usciva più di portata. Fino al riparto. Ma perché non sapete che è un microfono che c'ha il down e up e c'ha gli 8 volt. Ricordatevelo sempre. Tutti i microfoni che superano i 4, le 4 punte, hanno sempre l'alimentazione. O a 6 o a 8, quindi bisogna stare molto attenti. Soprattutto quelli che hanno il down e up. Capito? Lì c'è un'alimentazione che passa, c'è una tensione. Se tu sbagli le connessioni col microfono inserito, bruci finali. Non lo so cosa sia successo, però come si dice, in trasmissione non esce, ma esce, cioè in ricezione si sente, in trasmissione non esce. Perché è bruciato il finale, o il finale o qualcosa che alimenta lì. Sicuramente bisogna stare attenti, bisogna sempre fare uno schemino prima di toccare, di fare, misurare col testo, essere un po' più preparati in materia. Però sappiate sempre che tutti i microfoni che superano le quattro punte hanno tutta l'alimentazione, perché soprattutto quelli col down e up, lì passa una tensione. E quindi quando fai la connessione devi stare attento a non invertire i fili, perché se poi saldi, inserisci il microfono e fai danno. Lo so, purtroppo è andata così, dai, però già si è interessato, ha chiamato un amico suo e l'ha portato in continente, l'ha spedito e già va bene. Adesso vediamo un po', non c'è problema. Vabbè, non so manco chi ce l'aveva, io chi ce la stava facendo lavoro, comunque bisogna stare attenti quando si fanno queste cose, capite? Vabbè, l'importante è rimediare, non c'è problema. Gappa, Gianni. Sì. Riprendi. Sì, la riprendo. Era un telefono, dai. Con la persona. Sì, non me l'ho immaginato, tu ormai quando non rispondo lo dici se ci accendi. No, convinto. Ah, l'hai telefonato adesso, hai fatto bene. Ti ho dato l'appuntamento. Io l'avevo portato io, dai. Allora, hai visto, risolto. Te lo porti, l'alimentatore, ne hai un altro. Poi, se ti dovesse servire, te lo presto io, se la quando non è pronto quello lì, non c'è neanche problema, cioè. No, non è che queste cose possiamo anche farle. Però te lo porti, spendi 2 lire per la riparazione o quello che è, ma a me non è più. Non ce la fa i gusti. Senza fare così e via. Beh, ma insomma che buono quello in attaccatore, perché c'è un sacco di anni io. Cioè, ma poi io ci hanno attaccati 4HF, belli sostanziosi. Ha sempre funzionato bene. Purtroppo stiamo parlando di componenti elettronici che si possono guastare, non è che perché buttarlo via, ma stai scherzando. Si ripara e via. Ma speriamo. Perché poi lui ci sta un bel tempo a capire, quello è il problema. No, ma non credo, e a me me l'aveva fatto una settimana, l'aveva messo in mezzo, quanto che diceva dell'altro, me l'aveva fatto, no, già non è di quelli, lui. Non è più mentre prima, no, ho già, ce n'è poco di lavoro, prima era molto più incasinato, Vittorio, cioè, il lavoro è diminuito molto, quindi se lo metto in mezzo già te lo fa subito. Sì, intanto già c'ho questo qua, non c'è problema. Per il momento uso questo e via. E faccio il lavoro lo stesso, dai. Ma dovrebbe entrare Marco Scorpio, non so chi è, però c'è tanto nessuno. Luca, Lucrezia Burgia, non ci sei più. È andata a fare l'inizio della madre, tanto ti muore. Avanti Antoine, Antoine, cosa ci racconti? Oggi un po' di lavoro ci abbiamo. Non è che ho lavorato tantissimo, però sono un po' stanco stasera, la verità. Ma è basta che c'è un freddo di basta. Lasciamo vedere. E già va bene. Poco fa abbiamo fatto scaldare un po' questa antenna, adesso già va bene adesso. Allora ti mandare un calore da rotetto. Di tutto una piccola chitta, ma è vero che dice che quando gli mandi 100 watt se va a toccarla, o 150 watt se va a toccarla si scalda, vero? Mille magari. Tanto 150 watt è un altro bello. A me con un chilo watt e mezzo in FM col chiave 922 mi ha bucato, proprio ha bucato la regina della Mantova 1, mi ha gente giù una fiammata e ha fatto rientro da su a qua e mi si è saltato le stazionari a 8 e giù mai ci incendia la radio. Ritorno di fiamma, Fiago, sì, c'era il nono piano, allora mi ricordo nell'altra scala, l'altro appartamento più piccolo, Nadio Vegliato, un assunto, perché stavo giocherellando in AM col TL922, e non mi ricordo se avevo il 430 o già il 440, non me lo ricordo, forse il 430 avevo. Ho schiacciato la portante, non mi sono accorto che era in FM, quindi ho alzato la bottezza a milli, e sciogliti giù, è sceso, cazzo, il rientro dal cavo, mi sei giù su tutto, cazzo, e mi sono salito le stazionali a 8, e mi trovo tutto si è bruciato qua, fortunatamente si è salvata la radio, perché l'ho spento immediatamente, il cavo non voleva vita, il PL è diventato tutto niente, sono salito su e c'era un buco nella mantova allucinante da buttare via. Così è. Ma chissà quanto era, ci non vai due tiro, ma cosa ne giochi? C'è la potenza diretta proprio in FM, ma arrivare nel 100 watt di ingresso, immaginati tu, con due tubi 3500 Z, c'è un assorbimento allucinante, vince, gatto su carino, non ha giubilato la vita, asciuga, ho dovuto cambiare, fortunatamente era il nono piano, quindi avevo poco cavo, eccetera, l'antenna l'ho dovuta comprare nuova, allora le mantova c'erano e l'avevo comprato nuova, la 1 non c'era, avevo preso la 5, ecco perché avevo preso la 5, sì, e poi la seconda, la terza avevo preso di nuovo la mantova 1, la mantova turbo, poi di nuovo la mantova 1, adesso c'è di nuovo la mantova 1, sempre quelle sono, ma 150 watt e manco un bollo, il bocca, cosa le fa? Non le fa niente. Però me l'ha detto una capolata, me l'ha detto. Dice che quando tu vai in trasmissione, se vai sul tetto e la tocchi, dice che scalda, non so, è una cazzata che ha maledetto. Con quella potenza no, Anto, cioè certo vai a toccarla che stai andando in antenna, però devono arrivare in antenna, devo arrivare in antenna un kilowatt, perché non è detto che arrivi un kilowatt in antenna, ma anche se sono 700-800 watt in antenna, già lo senti sotto dove c'è l'attacco del PL che è un pochino caldo, ma non è che brucia. Bruciare a me bruciava, non so se te l'ho mai fatto già, avevo fatto la prova una volta con Gigi Vulcano. In macchina avevo attaccato quello che avevo io, che era un 500, non so, un 550, e quando schiacciavo la portante alla massima potenza, quello modificato, quando viaggiavo a Pefuas, mettevo la mano dove c'era il motore dell'antenna, sentivo che era calda, allora sì, ma erano sui 300-350 watt in un'antenna piccolina, capito Antonio? Io al quadrato l'ho vista un'antenna a bollire. Madonna mia! No, no, si è fatta proprio rossa. La giovane si è sciolta. Chi è? Ma l'antenna nella macchina sì, lo puoi notare, capito? Perché gli arriva, è talmente corto l'impianto, gli arriva la potenza diretta, c'è poco cavo, quindi se ne stai dando a 300, tu schiacci la portante, senti un pochino il calore nel mozzo dell'antenna, capito? Però l'antenna esterna no. L'antenna esterna ci vogliono fatte per sentire il calore. Il buon ghiro va tanto. Kilowatt, no watt, kilowatt. No, poi avevamo adesso minchiate, da. Ed è rubone così, rubone, fatto calottino e come si dice, da poi ti cade, ma va. Ti hanno detto coglionati, ma fatti i denti. È così, ma ci vuole kilowatt per sentire dissipare bene, capito? 150 watt non li gocce manco rubore, ma col PL dentro scalda, assolutamente. Io ho fatto la prova qua, io dove c'è l'amplificatore grosso, quello l'OA 1000, io ho i due connettori, ho il cavo dell'uscita dell'amplificatore, quello della Kenwood, che mi era rimasto dal TL922 che c'ha i PL in vetro, ad alta temperatura, e lì si manca un bello di goccia. Però gli altri che sono PL normali, li ho toccati con 600 watt, non manco scaldano. Ah, non le fa niente, non le fa. Comunque, è una capolata che mi hanno detto, dai. Gli succhi che hanno grebato l'antenna vuol dire che gli ha dato più del doppio, cioè è per quello che da poi quei piatto tutto. Anche un buco gli ha fatto, un buco ma bello, bello grande, un fiato di resina bruciata, ragazzi, di una cicciola a gas. Ma io stavo leggendo una volta l'antenna che dice che te ne va 5 kW, ma è possibile? Sì, sì, già ce n'è antenna, quella che c'ha Giovanni originale nel camion, pare una manto va in miniatura, una manto va a buio radiale, una manto va in miniatura, quella che è 5 kW. Ma può essere, io stavo leggendo, forse la Superlem, che tiene quella potenza lì? Quella con la bobina a bicchiere, quella trasparente, anche lì c'è delle 3 kW, 3 o 4 kW, è una buona antenna quella, ma visto come c'è l'avvolgimento tutto il rame all'interno, grosso, e quella è una signora antenna, è un po' debole di radiale, ma c'è un funzionamento micidiale. Quella lì, se la passano in bagaglia, chissà antenna, quella lì c'è scritto che tiene un sacco di potenza d'antenna. Sì, io la conosco. La Superlem, c'è la 8 radiali e gli 11 radiali in fibra piccoli, corti, ceretti erano, mi pare, adesso me ne ricordo, sì. E c'è un bicchiere di protezione, no? Trasparente, in vetro, e poi all'interno c'è una bobina che è gigantesca, amici di là, e c'è un funzionamento pazzesco. radiali lunghi come la lampada, invece con la 8 e con la 12 ce li hanno un po' più corti, perché chiaramente aumentando i radiali accorci il piano di massa, quindi li fai più corti. Fusaro ce l'ha a Sassari, sia una che l'altra, forse però con la 4 radiali c'è meglio, no, sono più lunghi della Mantova. Vicino a casa mia, vicino a casa, qua, minimo avrà 30 anni che si antenna, e c'è i radiali molto più lunghi, la Superlema. Oh, ce l'ha Fusaro, quanto costa? Ah, ma ormai è intorno ai 160 euro. Io mi avrei venduto, no, se costava intorno ai 100 euro me l'avrei comprato, ne avrei messo due, così avrei tolto anche i commutatori, una diretta qua ai K e l'altra diretta ai vintage, ai baracchini, così ne avrei tolto anche i commutatori, tanto il cavo di discesa è unico, quindi avrei fatto un capolavoro. No, c'è un santo, non lo spendo, già mi viene qui. Lo so, però se compare già la manto fa due volte di più perché non se ne trovano. Già detto. Hanno messo su un forum che c'è uno che vende ancora la Mantova 1, la Mantova 5 e la Mantova 1, tutti e tre le vende. Sì, l'ho visto anch'io. Io stavo guardando se avevano messo il forum, perché se no per chiamata me l'avrei presa una di riserva. Ah, io lì già avrei rimesso la Mantova. Avrei messo la Mantova, ma la futacciare radiale. Ma tu non sai, l'altro giorno in punta l'antenna c'era una cornacchia, come fa a stare in equilibrio, non lo so, nella punta brutto, di sant'era sbigiata, e la culla c'è andata, l'ho dato due scoppettate di mani così e si è scappato. Secondo me fanno così, in punta la Mantova, l'altro giorno c'erano due sui radiali piccolini in acciaio inossidabile, sono fiate della XC50 che è un metro di antenna con la VHF, 1,50 di antenna, tutti e due i radiali, due radiali in cose, in acciaio inossidabile che sono piccolini, sono da 30 cm, capito? È pieno. Poi non guarda quando piove. Se ne vanno sopra il dipolo, tanto è vero si deve essere sganciato qualche anello, perché sto ricevendo molto molto più basso. Adesso se domani non piove salgo a controllare. Si mettono sopra il filo proprio del dipolo, tutti in fila, ma 7, 8, 9, anche 10 cornacchie, quando piove, e si cuttureggiano i gullari basciuttassi. La mazza che tiene in varia, siccome è filo, si può spezzare. Ti danno quattro sugli animali. Mi ha dato ne vengo una in occhi, ne vengo, passeggia. E a me mi hanno detto che per non avvicinarsi devi ammazzarne una e appenderla, capito? Loro vedono quella lì appesa e non si avvicinano. Cosa già? Che se ti trovano mettendo la cornacchia morta, ti attacca. Allora, ma già matti, intanto no, prima guarda, mi dava fastidio sulle direttive perché ho dovuto tutte lavare prima di spedire, tutte pulire bene perché erano tutte sporche proprio dalla cacca degli uccelli. E mi dava fastidio, adesso non mi frega niente, non c'è più niente sul tetto. Ci può impiccare la cornacchia, la bicione, che si è affittata la notte, ma non le fa nulla, assolutamente. L'altro giorno c'erano lo stesso 2 o 3 sotto il radiale, ma no, non le fa niente, non rispetta. Va bene, e Luca per il bella via. È andato a fare l'essere alla mamma e non è pitturato. Ce l'ha provvisto. Allora è sbagliato, ce l'ha fatto Eddo a Rubelli a Puntura. E Rivella? Si curiamo la carrovella. Dove è il martedì? Portando in giro a tua sorella. Ui, ai, che. Oh già, stamattina sono andato al CAF di via Lombetto al Ciso, almeno dove c'era la Guardia di Finanza prima, perché è una vita, 30 anni che sono con quel sindacato, il sindacato di Abano a quello. A ritirarmi la documentazione del 7.30, poi dovevo fare alcune variazioni, eccetera, perché l'Ips mi ha chiesto dei documenti di mia moglie. Cazzo, se non c'erano una cinquantina di negri, tutti di marciapiede e zittendo a entrare a farci la pila. Aia, a farci cosa? A farci dare soldi, con l'ISE. Ah, ora pagano la lingua, non li pagano la lingua, gli fa la documentazione e basta. Sì, e beh, sempre di nascio, tutto in chi vi batte, tutto telematico, tutto. E la documentazione per i buoni spesa, no? Adesso stanno per i buoni spesa, scadono il 18, mi sembra, quindi stavo leggendo. Tutti a chiedere i soldi, c'era Sonino Fiori che è il titolare, a me mi conosce, sono una vita che vado lì. E tu hai detto che è tuo casino, hai voi. Ah, Luigi, tutta la documentazione, domande di buoni spesa, domande di reddito di cittadinanza, rimborsi per gli affitti dei cosi comunali, documentazione per richiesta di 30 euro al giorno, prendonomi Gianni, 30 euro al giorno, i servizi sociali di questa gente. E lo paghiamo, cazzo, questi hanno capito che qua si campa gratis, fanno la vita a babbo, sempre con vestiti firmati, vedi, scarpe da tennis Nike, tutti quei vestiti, ma come questo così, ha giudito, vabbè, è cosa vuoi fare. Ascolta, ma tu, nella liquidazione, ti hanno fatto le trattenute dalla ditta oppure sei dovuto denunciare sul 730? No, già, io ho preso il netto in busta con la liquidazione perché me l'hanno data dopo 60 giorni e poi la dichiarazione dei redditi la devi dichiarare, a me mi ha fatto tutto il caso. Ah, in busta con quel che ti hanno messo, ho capito. E vabbè, e tanto mi dovranno dare anche il CUD a me, il modello CUD quest'anno. Già che ci ho pagato 3.000 euro l'anno scorso, e mi fa la Durrai. Quest'anno penso che sia la stessa cosa, se fai l'accumulo della liquidazione con la pensione eccetera, già è un casino, più ce ne danno e più ce ne tolgono, non c'è niente da fare. No, beh, a me mi hanno fatto dopo 60 giorni una busta paga a parte con solo la liquidazione, tutte le voci della liquidazione eccetera eccetera, capito? Una busta paga unica dopo 60 giorni e non l'ho fatto tutto assieme, capito? E poi alla denuncia dei redditi con 730 ho portato quella busta paga e tutta la documentazione per fare 730 e mi ha fatto anche la retrazione d'imposta di quello lì. E bisogna stare attenti già perché sono richiari e poi te li prendono, te li chiedono e sono dolori, capito? Kappa, comunque è così, fa la Borraio, ma cioè questi prendono più di noi senza fare niente, venera uno, quando sono entrato, io c'avevo tutta la cartella, eccetera, mi stavano guardando, perché loro erano in fila, io ho parlato direttamente, stavo aspettando qualcuno mi dicesse qualcosa, come mi ha visto, c'è un Fiore, oh ciao, tutti i giorni siamo per entrare, entra, ma ci sono questi, entra, fregatene, aspettano loro che non ne hanno appuntamento, tu c'è l'appuntamento, invece non avevo manco io appuntamento, capito? E c'era uno vicino a me, che poi lontano da me, non vicino, perché c'era la mascherina, anche lui e tutto, se non entravano, li stava facendo entrare tre. Se tu vedevi come era vestito già, va via, le Star Smith, come quelle che ho io, tipo le mie, che costano cazzo 120 euro, giubbotto Nike, berrettino Adidas, vestito bene. Già lo so che vestono così. No, il problema mio è che io devo prendere due liquidazioni, una da una ditta e una dall'altra che ci ha preso dopo. Solo che quella di dopo non so se la vedrò perché l'hanno arrestato. Allora stai attento, già informati dal sindacato, perché molto probabilmente con due CUD devi fare due dichiarazioni di redditi. Lo so, casino. È un casino. Vabbè, se non ce l'hanno pagata ancora questa liquidazione, cosa denuncio? Io denuncio quella che mi danno, non quella che non mi hanno pagato. Certo, però se loro ti dovessero dare il CUD dove c'è la voce liquidazione, anche se non l'hai percepito, stai attento, informati. presidente, informati bene al sindacato. Perché a me mi avevano dato prima il CUB, dopo 60 giorni mi hanno dato la liquidazione. E io intanto nella dichiarazione dei redditi l'avevo già dichiarata. Sapevo che non mi bruciavano perché non era quello il problema. Però l'avevo già dichiarata, capito? Quindi informati bene perché sennò sono dolori. Già lo so. No, ma quest'anno non dovrei pagare molto. Me l'ha già detto che ho pagato questa volta perché prendevo lo stipendio più la pensione. Invece quest'anno c'ho solo lo stipendio, c'ho solo la pensione, vabbè, te l'ho detto che la liquidazione la sto prendendo mese per mese, l'ho scelto io di fare così. Hai fatto bene, dimmi un duro. Io l'ho operato da sera, poi grazie a Dio già era tutto bene. Qualche residuo già c'è ancora, ma sono passati 3 anni già. Comunque andava bene, ha pagato. Però stai attento, informati già, perché non so esattamente com'è la cosa, però una volta che tutto è scritto nel CUD, soprattutto della seconda azienda, informati, già c'è il sindacato, chiamo il commercialista, capito? Non me l'aveva detto proprio il commercialista, ha detto no, creazione redditi, noi la facciamo lo stesso, qua è dichiarato nel CUD, che in entrata c'è questo e noi lo scriviamo nella dichiarazione dei redditi. La dichiarazione d'imposta la facciamo, quando ti arriva quelli, no, non mi interessa a me, e così l'abbiamo fatto, capito? E poi Gappa, avanti a tu, e io il coso, il 19, cioè l'ultima visita a mia moglie, che l'hanno chiamata a San Camillo per la verifica dell'invalidità, e poi può fare la domanda di invalidità, e quindi la prende anche lei, anche abbastanza sostanziosa, perché poi facciamo l'aggravamento per la cosa, come si dice, per la... l'accompagnamento, capito? Figuriamo una cosa, qui avranno i voti, non so cosa, avranno il giubbotto di Nike, avranno chi c'è, avranno chi c'è, ma lo piango, è sempre chiesto però. Sì, vabbè, ho l'odore della pelle, Antonio, non è che sono sporchi, attenzione, che c'ho un amico, oddio, uno che conosco, che vende roba e sta anche molto molto bene, perché c'ha la non è barra di buco, vende roba così che porta da fuori eccetera, ed è sempre bello cambiato, pulito, ma sempre bello profumato, però hanno dovuto a visini, va sempre un viaggio diverso da rodoio, è la pelle, capito? Cosa sta dicendo già? Che loro sentono l'odore della nostra di pelle. Noi non lo sentiamo e loro lo sentono. Beh, certo che sì. No, ma facciamo, sta dicendo qualcosa di San Camillo? No. E a San Camillo domanda perché mi stanno trascurando al centro diabetico, cazzo, non sto più facendo nulla da un anno e mi sento un po' trascurato, capito? Il telefono, mi dicono mandi gli esami via fax. E come facciamo a fare l'esame se non mi avete fatto la richiesta per l'esame? La mandiamo via fax, io non ne ho di stampante a casa, è inutile che me la mandi perché non la posso stampare. Capito. Non lo so, io 19 vado ad accompagnare mia moglie a San Camillo, perché l'ultima visita che aveva fatto avevano dato il 75, adesso l'hanno richiamata a visita, che la voglio rivedere con la nuova cosa che ha avuto, capito? Vogliono rivedere tutta la documentazione, penso che questa volta la chiudiamo così, insomma, dai. Con l'85%, così fa la domanda di pensione e via, di pensione già, di invalidità. Io ce l'ho 80. L'85 vediamo, dal 75 all'85. Adesso poi ho detto l'ortopedico che incorreva anche questa operazione che ha avuto perché non sta bene, il piede oramai non esegue più, quindi vediamo cosa succede, non lo so comunque. Se vuole l'anno se la prende, ma penso di... riuscì a compravedere, solo 85-90% già la prende. Già la prende, capito? E così c'è la sua pensione più l'invalidità, insomma, la, si va a travagliare di buruetta, buruetta. Vai Anto. Ma no, no, non cammina proprio più, no, non si può fare niente. Avanti. Io vorrei entrare avanti. Oh, qua, vicino a casa c'è un signore anziano, ci avrà un 78 anni, così. L'ha fatta questa operazione, l'ho visto per un po' di tempo camminare con la scarpa ortopedica, gli ho chiesto cosa avesse avuto e mi ha detto, ho fatto la luce al vado, e me l'hanno fatta al ghero. Ha detto, come al ghero? A me non mi hanno fatto la gamba. No, certe operazioni non le fanno, ma certe altre sì. E me l'hanno fatta al ghero, mi ha detto. Poi dopo poco tempo l'ho visto guidando la macchina, cammina tranquillo, boh, ho riuscito a fare l'operazione. Succede? È quello che sentiva più basso. Capito, vicino a casa c'è questo qua che si è fatto l'operazione. Un uomo grande, di una certa età già. Eppure grazie a Dio cammina bene, guida la macchina. Ma per quello che mi è sparito di segnale, ha detto, ma è un altro che cosa sta succedendo? Ai ai ai, vabbè, può succedere. Cazzo, ho tirato, porca miseria, non ho voglia adesso di rifarlo, dai. Ho tirato il, ho cambiato il radio, sto usando il baracchino adesso. Ho tirato la, la sedia, indietro mi sono accorto che c'era, lungavo ingrigliolato, la rotta, cazzo. Beh, tirato tutto. No, si è staccato il cavo dal, dal commutatore d'antenna, capito? Non ne ho voglia adesso, quindi ho commutato l'altra radio, che è questa. Vista cosa vuol dire avere fili in giro qua? No, no, non ne ho fili io, non ne ho. Non ne ho fili già, c'è il commutatore dietro praticamente. Ho allungato i piedi. Mi sono portato, deve essere il cavo che c'è dietro la scrivania vicino alle ruote, come ho spostato la ruota mi ha tirato, ha tracciato il cavo, capito? E succede, interessante che si possa rimediare, da bui, quello lì non ci vuole nulla a saldarlo, almeno la tassa da bui la saldi domani. Oh, infatti no, io mi gioco un bescio d'animo, ho commutato, perché mi ha staccato il cavo del, dei K, capito, che è unico, no? C'è il commutatore, e allora ho commutato e ho girato il baracchino, non ce n'è problema, domani mattina con calma, io mi voglio buoniavare dei 3 mesi, la sala è, non andiamo alle rivenghe, poi è il, la Camille, figurati, ci vuole 2 pinte, 2 cose, bisogna rifarlo, domani mattina con calma lo rifaccio, lo inserisco e tutto a posto. Adesso già modulo con questo, non c'è problema. Troppa gappa. Vabbè, tutti gli alessi di buco stasera sono fette. Occhio, non mi sarrossino le orecchie. Duro. Già vive. Che ti si arrossino le orecchie, così ha detto già. Che non ti si arrossino le orecchie, arrossano le orecchie. Va bene, va bene. Questo è sempre l'elbec che c'è. Già va bene, a voglia. No, no, tanto io... Non per, però, le radio io funzionano tutte. Ne ho altre 2 dentro l'armadio di veicolari, che sono... Per questo ho 120 canali. 120 canali con le bande laterali, però non c'ha l'FM, capito? Però c'è una ricezione da favola. Da favola. Bello, veramente, nuovo, nuovo. Funzionante al 100%. Ma tu non ce l'avevi un Elbex lo stesso, Anto? Sì che ce l'avevo, non mi ricordo che cosa, cosa ne ho fatto. Forse l'avevo fatto a qualcuno. Anche tu ci avevi un Elbex, mi sembra, tipo questo, adesso non so se era il 4082, boh. Non mi ricordo che ce l'avevi, usciva anche molto bene. Gava gava. Avanti già. Se ne fai la modifica, cazzo ci vuole. Questo è modificato, non è 120 canali, questo era 40 canali. Capito? Hanno preso dove c'è CBPA, hanno fatto 120 canali e basta. 120 canali, poi dopo c'è NB, NB, ANL, lì che hanno fatto appunto il passaggio, eccetera. Però funziona molto, molto bene. E c'è la regolazione dei watt anche, capito? Ha la regolazione dei watt dietro, c'è un pomellino bellino, manco si vede. Io lo tengo sempre a manetta, è da quasi 20 watt da. Insomma, io sto modulando adesso con la potenza, il pomellino è a metà perché l'avevo regolato per appunto l'amplificatore, io stavo provando l'amplificatore e invece gli posso dare anche tutti perché non succede niente. E sta andando con 10 watt modulati quasi 13, al massimo ne dà 15 modulati 18. Anche il mio ne dà 20. Quello che c'ho qua, ma non, è, non l'ho messo mai così perché no, non mi interessa, vado sempre piano, capito? No, vabbè, se moduli senza amplificatore io le do tutta la potenza come adesso, se uso l'amplificatore non gli do tutti i watt, anche se non le fa niente, non è che satura, però lo metto a metà, 7-8 watt, capito? Già va bene lo stesso. Papà, no, io sono 10 watt, lo uso senza amplificatore. Qualche volta mi ha detto, ma no, non mi occorre, no, mi bastano 10 watt, se non fare il guascio locale. Se non fare il bordello, chiudo tutti i watt, attacco l'amplificatore. Ma io sempre a 10 watt lo faccio andare, no, non lo utilizzo mai tutto. Anche questo, sto qua c'ha 12 watt, intorno ai 12 watt, e mi bastano, mi avanzano. Non va bene, ma già, intanto ci sentiamo lo stesso, già di nascosto. Riprendi già che vada bene. Via. K. Io dicevo, proprio sul diabete, su videolina, non ne sono dimenticato, lo volevo guardare, invece non ne sono dimenticato. Mamma mia, malattia, no, meglio niente. Niente, no. Lo so che magari può interessare, però. Certo che interessa, ti insegnano quello che devi mangiare, ti dicono come ti devi comportare in certe situazioni, ti dicono tutto, capito? Sono diabetologi che parlano. Infatti adesso sto per chiudere perché adesso mi chiamerà la mia pischella, a questo la chiama, perché finisce di lavorare, quindi mi chiama e sto per chiudere, dai. Verso le 10:30 mi chiama sempre, tanto lo so. A quest'ora se finisce, mando il travaglio Alberto. C'è il tuo, finisce il turno e poi puoi riprendere il collega, perché io sembra già 24 ore nel vero. E fanno media ore fa. Ma già sono pagati i reparo. Beh, ci mancherebbe. Ma c'è cose varie, si fa un bel gruzzoletto. Specialmente quando c'è il turismo d'estate, oddio, guadagnano poco. Torna per dire, vai. Ti tendi cucciurente. Proprio tanto. Salutami a Claudio quando rientra. Che io sto andando via, se no qui non mi trova pronto, devo staccarmi tutto di tutto. Devo mettere le cuffie a posto e tutto. Dai, ci sentiamo alle prossime. Buonanotte, ciao Claudio, se mi ascolti, buonanotte anche a te. Ehi, già, sono qua, dai. No, stavo controllando cos'era successo, invece non è successo niente. Ho solo sfilato dal connettore, l'ho riavvittato. Mi sembrava strano, perché questo è un cavo grosso che si sia rilanciato il PL, invece no. Non è successo niente, l'ho solo attaccato dal connettore, dai. Ciao, già, ci sentiamo alle prossime. Buonanotte, buon tutto, e ci aggiorniamo domani, ok? Via, ci sentiamo. Ciao già, buonanotte e buon tutto. Gappa del Rosmetto. Io sarò fissato, sarò. C'è una mia fissazione mia, però ho questa fissazione che secondo me gli apparecchi non devono, cioè se fai questo locale non devono spingere più di tanto. sarà una fissazione mia, cioè. Però ma è così anche così. Ma si è sempre attaccato, grazie di te. No, quando faccio questo locale così normale non so che attaccato. Infatti, aspetta anche per questo coscio locale, aspetta, abbasso qua. Ora. Ecco qua, 10 watt, adesso che guarda. La tengo così, io non è bello che sta in mattone. Ah, abbassalo, tanto per comunicare in città, abbassalo. Guarda che quella là non c'è il regolatore, lo tengo basso, lo tengo. Allora quando devo bubare lo attacco lo coso, però se devo parlare qua, no, ma lascio stare, mi basta così. Questa c'ha 10 watt di portante, picchi di modulazione 50-60, lo già devo aumentare, non devo aumentare niente, capito? Infatti la voce l'ho abbassata leggermente perché il picco era troppo alto, capito? Va bene così. Ma Paganini Varia, ma come partono quelle radio? Spiegami un pochettino. Cioè, se io gli do 10, quanto se ne va? Cioè, da quanto partono il minimo? Guarda, questo io la porto a 5 watt e modula 20-25 di picco, capito? A 10 watt già siamo intorno ai 30-40 e a 20 watt di portante bianca siamo intorno ai 50-60 watt modulati. Il massimo quanto è? Allora questa però, perché questa me la sono fatta per me, questa c'ha 100 watt di portante bianca, 100, modulati 120-130. Assurdo. Vabbè, questa è la mia e se la brucio sono cazzi miei, non mi interessa. Gli altri poi se la fanno come vogliono, però sappi che queste radio quando escono dalla casa nuove hanno 40 watt in AM e BU, ok, e 100 watt in FM e 100 watt in SSB. Allora non si brucia perché alla fine con la potenza ci devono anche andare. No, non si brucia, sono fatte apposta per avere alcune modifiche che vabbè, a me mi aveva segnato Carlo di Chiaramonti, avevo imparato a farmi questa modifica così, modifica non è modifica, devi dare un pochino più di potenza e aumentare appena il VR17 che è l'LC e basta, in modo che abbia il picco leggermente più alto, boh, basta, non ci sia da fare molto, capito? Però devi stare attento a non tirare la moto perché può bruciare i filati, dietro il porto questa. Ce li ha tutti i watt come l'SSB, ce li ha anche in AM uguali, perché l'SSB nasce così a 100 watt, io l'ho portato anche in AM a 100 watt, però la tengo sempre intorno a 10-20 watt massimo, perché il picco di modulazione è molto alto. Ora ho capito, come funziona. Tu devi avere, cioè praticamente per usare questo tipo di radio non è detto che devi avere le stazionarie a zero, cioè anche se ne hai a 1,2, a 1,3 non ti dà problemi. No, a 1,1, 1,3 sono normali, io ho 0,8 di stazionari, 0,8, capite? Praticamente neanche uno, 0,8, non 8, 0,8. Misurate con uno strumento che mi hanno prestato, non l'avevo mai misurato, 0,8, cioè manco uno, perciò va bene, anche perché quando si amplificatori è meglio che ne hai il meno possibile e rimane sempre così stabile, però queste radio è meglio non tirarle, anche se c'hai tutta la potenza devi tenerla bassa. E per forza devi usarle così. No, ti sto facendo delle domande perché magari se ti andate di prenderne una voglio capire un po' come funziona. Tanto tu con una dice ti rampi tutto, capito? Ti attacchi questo all'alimentatore e basta, ci arrivi il microfono normale e ci è arrivato. No, non devi fare assolutamente niente, la tieni a 20 watt di portante vai sul parlato, ti vai intorno ai 50 watt e tu sei a posto, sei renato, perché sia come ricezione che come trasmissione sei al top. Ho bisogno di scaldare, è vero, come tipo di radio, cioè prima di andare in trasmissione bisogna aspettare un pochino. Beh, Anto, 140 è una radio un po' particolare, 140 e 70 sono due convertitori, quindi quando tu la spegni, che la radio è fredda, se l'hai spenta per dire a 50 watt, quando vai ad accenderla te ne va 5, 10 massimo, quindi devi farla scaldare e poi si stabilizza come tu l'hai regolata, mentre il 430 e il 440 sono tre conversioni, la spegni a 50 watt, la accendi e rimane sempre a 50 watt. Allora, ho capito, no, perché no, cioè, non ne ho mai avuto, quindi non sapevo com'è. E vabbè, la radio è seco, però magari è un'altra cosa, sicuramente un'altra cosa, quando ci va a modulare, cavolo. Sono radio che io mi sono fatto la mia esperienza, dall'86 ho chiuso sto radio, però ho deciso 440 non ne prenderò mai più, basta, sono riuscito a vendermela anche io, come ha fatto qualcun altro, non la prendo più altro perché mi ha creato troppi problemi, troppe spese, quindi sono tornato al 140, il 430 è sempre qua, però sono tornato al 140 che per me è un baracchino a sintonia continua, ma va bene lo stesso, ti dà ottime soddisfazioni il 27, però non ti crea problemi, capito? È proprio un vero muletto, perché io lo lascio spento giorni, lo riaccende e accende sempre. Il 440 l'avevo lasciato 10 giorni perché quando lavoravo non è che avevo sempre tempo di stare alla radio, e certo sono andato a accenderlo e puntini, tutto barbati gioiera, e ci ho rimesso 180 euro, quindi basta, non devo dirmi sapere, 440 è una radio che è nata male, non mi interessa più. Sì, l'ho fatto mettere a posto, revisionare tutto, l'ho venduto tranquillamente, perfettamente, ogni tanto ci sentiamo, chi l'ho venduto è abbastanza contento, però ci ho rimesso 180 euro, capito? Perché l'ho venduto a prezzo normale, 350 euro, capito? Però ne avevo speso due mesi prima 180, quindi non ne vale la pena. È una radio che è nata difettosa, a me mi ha creato problemi dopo due anni che l'avevo comprata nuova da vari volontari, dopo due anni mi ha creato problemi, quindi poi ho scoperto appunto che il problema di quella radio è un problema sulle VCO che si è portato da quando l'hanno costruita, boh, basta, e ce l'abbiamo portato tutti quel problema, tutti ci hanno rimesso soldi sempre con lo stesso problema. Ormai riuscì a modificare, a fare una modifica, a chiamare azzurri, non vedo mai riuscire. No, io avevo consultato un grande tecnico che oggi non è più, non so manco se sia morto, Guidetti, che era un grandissimo proprio kenwoodiano, faceva queste radio a occhi chiusi, e mi aveva detto che quella radio lì era nata così, è nata male proprio con questo problema del VCO, e che quindi bisognava metterla a posto, fare una bella revisione, dopodiché praticamente con gli anni si ricapitava lo stesso problema, e ci siamo caduti tutti quelli che hanno avuto, hanno il 440, hanno sempre lo stesso problema del VCO, ma non lo dico solo io che mi sono fatto la mia esperienza, ma lo dicono tutti quelli che ce l'hanno e l'hanno avuta, capito? Mentre queste creano meno problemi. Allucinante, ragazzi. Allucinante. C'è una radio che costa tanti soldi, c'è, avere questo problema. E poi quando erano nuovi, chi si costava nemmeno? Mi hai pagato un milione più all'epoca. Un milione? Questo è un milione. Questo è un milione. Il primo che ho comprato, il 430, la Maria Rotella, aveva pagato 1.750.000 lire. Il 440 mi era venuto più i 2 milioni. Gesù Cristo mio. Considera che siamo in euro, quindi quando tu vai a venderla 400 euro, 350 euro, la stai vendendo 700 mila lire, 800 mila lire, quindi alla fin fine il prezzo è quello, capito? Considerando che 140 lo paghi 250, 280, c'è gente che lo vende anche a 300, 350, a chi non aggiungo un paraduno a 350 euro, capito? Pure che uno ci lamenta, il gatto guarda un pareggio edo, o comprare gratis, e invece quando vendi edo vendi a prezzo pieno, lasciamo perdere, perciò ti sto dicendo. I prezzi sono quelli, ognuno vende come lo pare piace, poi questo mercato del 140 è dalle 250 alle 300 euro massimo, ma proprio deve essere perfetto, capito? Mentre un 440 va dalle 350 alle 400, no, non di più, 420, c'è chi lo vende anche 450, ma ti ripeto, ognuno fa il suo prezzo, dai. Lo so. Non so pochi di danno, sono un bel poco di dirammo in furoghice. Che così neanche poco usato adesso. Però diciamo che già se voi sono prese più abbordabile. Ma quando ci dovevo visto all'epoca i giochi erano. Tanto io ho avuto 9.440, 9. Su 9.440 ho fatto 9 riparazioni, ok? Uno ad ognuno. Tu conta 200 euro l'una, la riparazione mi usciva una cassa nuova da 1.800 euro. Capito? Cioè, ti sto spiegando proprio pappare pappare. È una radio che prima o poi, io ho avuto sempre un po' di fortuna, mi sono durato tanto tempo, però ne ho speso una barca di soldi, una barca, capito? Proprio perché una radio mi è sempre piaciuta. Alla fine, quest'anno è già iniziato nel 2020, ho deciso proprio di farla fuori perché ne avevo le balle piene. Io avevo quella radio revisionata 2 anni prima, perché io l'ho comprata qua a Sassari, un carissimo amico, e me l'ha data così. Mi ha detto, guarda, era ferma, c'è questo progetto, non ti preoccupare. Mi ha fatto un buon prezzo, l'ho presa e l'ho data a revisionare. Qua a Sassari, tutta revisionata, tutta, dall'A alla Z. Dopo 2 anni neanche lo stesso problema. Ma vaffanculo. Lo so. Gira le scatole, gira, cioè la buona porta da buttare. Anzi, ti è durata anche tanto. Secondo Care non ridura nulla. E appunto, la fortuna è che questo carissimo amico, perché è una persona abbastanza a modo, prima di darmela, ma è trovata, prima di darmela c'è questo problema, la do a riparare, la data a un altro amico, l'ha fatta tutta revisionata dalla Z, perché non ci sono dubbi, sono più che sicuro, è tutto, e dopo 2 anni ha perso lo stesso problema. Allora l'ho fatta riparare io, che se mi è costato 180 euro più 20 andare, 20 a tornare, 220 euro, capite? E boh. Una cosa c'è passato, neanche un anno e mezzo, lo stesso problema, boh, basta, l'ho fatto riparare e l'ho venduta, basta, non voglio più sapere. Hai fatto bene, hai fatto benissimo, per carità, non puoi ci di capo con una cosa del genere, no. Mille difetti con la radio, guarda, lascia perdere. Ad un altro amico lo stesso. io non le compro mai più. E ti dico che è una radio che mi piace tantissimo, perché l'ho usata, la conosco, ho vinto i miracoli di quella radio, tutti i difetti e i pregi, però non le compro mai più. C'è questo 440, è bellissimo, nuovo nuovo, era di un radioamatore che lo usava per fare delle spedizioni, e ce l'ho io, guarda, è nuovissimo, funziona benissimo, non mi crea problemi, non me ne ha fatti nulla, capito? Fatto bene. Io ti do una buona notte, che mi sto addormentando proprio come con la radio accesa, mi trovo. Ciao, buonanotte Clatch, sentiamo, ciao ciao anche a tutti gli ascoltoni, buonanotte a tutti. Ciao ciao, grazie per le chiacchiere, io mi finisco la partita qua, poi me ne vado nel salone. Ciao, buonanotte, a domani, dai. Saluto a tutti quelli che sono ascolto sul canale 10, Claudio Spagliero, dalle alture di Carbonati, chiudo, ciao. Ciao, ti volevo chiedere l'ultima cosa, se io ci voglio mettere per tenerlo bene di stazionare a passo, un accordatore, ci vuole il suo o posso usarne uno così? No, ma tu puoi usare uno qualsiasi esterno, non c'è problema, anche un TM1000 puoi usare, no, non c'è problema. Gli attacchi sono uguali a quelli del baracchino. Se poi vuoi fare linea col suo accordatore automatico, allora ci vuole il suo accordatore col carretto suo, ma ti costerebbe altre 200-250 euro per comprare l'accordatore suo da T250, capito? Quindi non te lo consiglio, anche perché tu hai poco spazio e se inizi a fare linea avevo una scrivania, avevo, perché è grande, capito? Quindi ti metti sopra la radio con un pelo per non graffiarla, quando ce l'avrai un accordatore qualsiasi e usi lo strumento esterno, insomma, va. Ho capito, va. Ok. Dai, buonanotte. Ci metti il rombo. Non tanto. Ciao, ciao, buonanotte. Buonanotte anche a tutti ai CBU.